Europa 24. Ben ritrovati da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Partiamo da una citazione tratta, come si dice, dal Festival dell'Economia a Trento, e il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ieri è stato l'ospite d'onore. Dire che c'è troppa Europa, ha detto tra l'altro, significa andare indietro nel processo di integrazione. Secondo me, ha detto il ministro, bisogna andare invece avanti, quindi avere istituzioni comuni, aumentare e di molto la capacità di crescita di posti di lavoro. C'è un ampio potenziale che non viene sfruttato, e se ci fosse un meccanismo che gestisse in modo meno duro gli aggiustamenti dei singoli paesi, questo sarebbe un fatto decisamente positivo. Così il ministro, mentre naturalmente le urne tracciavano il nuovo profilo, o meglio il profilo aggiornato della politica italiana, parla dunque di Europa. Intanto di Europa e di immigrazione si è parlato invece ieri tra Bruxelles e le capitali europee, con un chiarimento che era atteso da parecchi giorni, in particolare riguardo alla posizione francese rispetto alle ultime decisioni prese appunto a Bruxelles. Il servizio. Nella sostanza, Francia e Germania hanno dato ieri il loro appoggio alla proposta della Commissione per meglio gestire a livello europeo l'emergenza immigrazione. Bruxelles ha proposto di ricollocare in giro per l'Europa 40.000 profughi arrivati in Italia e Grecia. In un comunicato congiunto, Parigi e Berlino hanno spiegato che la situazione nel Mediterraneo centrale va affrontata a livello europeo, ma hanno sottolineato che la chiave di ripartizione degli asilanti, così come messa a punto da Bruxelles, va migliorata per tenere conto di quanto già è stato fatto nei vari paesi. Il negoziato è tecnicamente difficile e politicamente delicato, ma emergono le basi di un possibile accordo. La proposta comunitaria non piace ai paesi dell'Est, che ne criticano l'obbligatorietà. Favorevoli invece sono, oltre alla Francia, alla Germania e all'Italia, anche la Grecia, la Svezia e l'Austria. In dubbio, in particolare sulla chiave di ripartizione, sono Spagna e Portogallo. Il provvedimento deve essere approvato alla maggioranza qualificata. Il negoziato appare difficile, ma non impossibile. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora parliamo di calcio. Venerdì a Berlino, lo sapete, la vigilia della finale di Champions tra Juventus e Barcellona, ma anche riunione del comitato esecutivo del governo del calcio europeo, naturalmente per parlare di corruzione. Un vero e proprio monito arriva da Bruxelles, che dice: per la FIFA è tempo di cambiare. L'idea che l'Europa minacci di boicottare i prossimi mondiali di calcio nel 2018 in Russia come forma di protesta nei riguardi della FIFA sotto inchiesta per corruzione non è un'opzione che abbiamo sul tavolo. Lo ha affermato a Bruxelles una portavoce della Commissione europea, Nathalie Van de Stadt. Non c'è posto per la corruzione nello sport, milioni di tifosi nel mondo meritano di meglio, ha però evidenziato la portavoce. La FIFA, ha concluso la Van de Stadt, deve cambiare con o senza Blatter al suo vertice. Parole che arrivano in giorni di appuntamenti cruciali, con l'incontro tra il commissario allo sport europeo, il CIO e la UEFA di ieri a Losanna, e quello tra il presidente della Commissione Giustizia e Loretta Lynch, la ministra alla giustizia americana, che è motore primo dell'inchiesta statunitense sulla corruzione nella FIFA. E venerdì a Berlino, alla vigilia della finale di Champions tra Juventus e Barcellona, riunione del comitato esecutivo del governo del calcio europeo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per lo spazio europeo. Ci risentiamo naturalmente domani alla stessa ora, ma anche questa sera intorno alle 21:30 all'interno di Effetto Notte. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.